Hey, con cana. A tenerle que sos combo. Aplicando yo, China. Buongiorno e bentornati su Radio Wombat, frequenza 13.9 AM, bentornati sì alla rassegna stampa settimanale che questa settimana sarà un poco particolare, in quanto non l'avete mai sentita così come sarà fatta, è una rassegna stampa che tenderà a trattare la questione della migrazione soprattutto dal continente africano verso il continente europeo, ma non solo, non riguarderà solamente le migrazioni, ma tante altre questioni. Abbiamo qui ai nostri microfoni due voci nuove che non avete mai sentito, è un onore presentarvele, una è Mad, eccola qua. Ciao, buonasera. E l'altro invece se lo si presenta da sé perché il nome è veramente complicato. Ciao, buonasera, io sono Cegianto Cogliano. Cegianto Goyan, avete sentito bene, dovrete impararlo perché sarà il nostro speaker per questa rassegna che andrà in onda circa una volta al mese, tutti i lunedì in diretta dalle 12 al circa le 13:15 e poi con le repliche il mercoledì e il venerdì sull'ora di pranzo e sull'ora di cena come tutte le altre settimane. Benissimo, abbiamo detto che sarà una rassegna che parlerà della questione migrazione, in particolare andremo a leggere tutta una serie di articoli che riguardano il Mali, tutti dei disordini che stanno accadendo in Mali in questi periodi riguardo al terrorismo nel nord del paese, e poi le varie manifestazioni di protesta che si sono viste svolgere a Bamako. Andremo poi ad analizzare la situazione delle migrazioni all'interno dei paesi africani con anche gli ultimi trattati portati avanti dall'Unione Africana, per poi avvicinarci al suolo europeo. Anzi no, prima andremo anche ad analizzare la questione nigeriana, la questione delle multinazionali petrolifere Eni e Shell, che stanno affrontando un processo a Milano iniziato circa 15 giorni fa sullo sfruttamento delle risorse minerarie e petrolifere nigeriane. Avvicinandoci ai territori europei parleremo della solidarietà che spesso viene messa in discussione soprattutto vicino alle frontiere. La frontiera meridionale vede un sacco di problemi per le navi delle ONG che cercano di salvare i migranti nel Mediterraneo, ma che si vedono sempre più di fronte a difficoltà che sono presenti anche nelle frontiere settentrionali italiane, perché diciamo in modo un pelino diverso, ma c'è il rischio per l'incolumità e anche per la vita nelle persone pure nel valico, nell'attraversamento dei valichi alpini. Non ci fermeremo a queste frontiere, andremo anche a parlare della frontiera turca, che non è Europa, ma ci riguarda molto da vicino a causa degli accordi freddi con l'Unione Europea, proprio per trattenere il più possibile i migranti siriani che stanno fuggendo da una guerra, anche in buona parte causata e costruita dallo Stato turco. Andremo poi invece in pieno territorio nazionale perché ci sarà da discutere, ci sarà da leggere su quanto è accaduto ai DDN, il senegalese ucciso a Firenze in data 5 marzo, e anche sulla situazione abitativa molto spesso precaria, per essere buoni, che i migranti si trovano ad affrontare. Avremo poi in chiusura una serie di approfondimenti, uno sull'attualità maliana vera e propria, e poi avremo un contributo da Brisele Frontiere, che è una rete che si occupa del sostegno ai migranti che cercano di affrontare l'attraversamento della frontiera nell'alta Val di Susa. Brisele Frontiere, che già abbiamo avuto ai microfoni di Radio Wombat sulla trasmissione Fuoco alle Polveri, e potrete anche trovare il podcast. Detto questo, prima di iniziare, io direi che vi mando un bel pezzo. Zen Circus. Ci marci un po', poi un giorno ti ritroverai di fronte al tuo vecchio. Quando lui è morto, ricordi che tu hai pianto un secondo, poi hai pensato solo a te. Sia, ma di quelle vere con tutti gli ubriachi e che indicano te. Ok, eccoci tornati. Iniziamo dal Mali e abbiamo il nostro nuovo speaker che ci leggerà un paio di articoli. Allora, sulla resina stampa di Malia Act è stata una manifestazione di fronte all'ambasciata algeriana a Bamako. È degenerata lunedì 12 marzo. I giovani maliani si lamentano di essere stati maltrattati dopo il loro arrestato in Algeria. L'ambasciata algeriana di Bamako, che la sede è a Daoudabougou, è stata l'obiettivo dei manifestanti lunedì 12 marzo. I manifestanti hanno lanciato le pietre e piccoli fuochi. Hanno punteggiato una manifestazione di dozzine di maliani che accusavano le autorità algeriane di maltrattamenti. I manifestanti affermano di essere stati espulsi dall'Algeria in condizioni inappropriate e persino illegali. In una dichiarazione rilasciata il 15 marzo, Bamako ha espresso da ad Algeria per questi atti. Raggiunto telefonicamente, l'ambasciatore algeriano si è limitato a riferirci al documento rilasciato delle autorità maliane. La manifestazione a Bamako segue una nuova ondata di arrestati di massa di migranti provenienti dai paesi dell'Africa subsahariana. In Algeria, 11 e 12 marzo, secondo una dichiarazione da un gruppo di associazioni, tra cui l'Organizzazione Marocchina per i Diritti Umani, Mauritania e la Lega Algeriana per la Difesa dei Diritti Umani, più di 280 persone sono stati arrestati in due giorni, arrestati arbitrari e facciesi. Secondo queste stesse associazioni, non chiedono documenti o altro. Risultato, fermano persino la pelle nera dell'Algeria, accusa una fonte associativa in Mali. Il 6 marzo abbiamo raccolto circa 92 giovani migranti, tra cui i 20 e i 25 anni, erano stati riportati al confine qualche giorno prima. Si sono lamentati di maltrattamenti, umiliazioni. Alcuni sono portati per Bamako l'8 marzo, alcuni erano nella manifestazione del 12 marzo. Un giovane deportato maliano ha negato l'accesso ad un rappresentante dell'autorità consolare maliani. Dopo il suo arrestato in Algeria, le autorità algeriane tuttavia assicurano alle istituzioni internazionali che le autorità consolari hanno accesso ai loro concittadini nell'autunno 2017. Il console del Mali si è recato a Tamarassette. Voleva vedere le persone detenute in un centro di detenzione più o meno formale. Non poteva, assicuro, giovani africani a capo dall'associazione Euromed Hig. Le persone arrestate sono trasportate sotto costrizioni in autobus sotto scorta della carabinieri, poi abbandonate nel deserto. Secondo le associazioni della stampa su espulsioni, di 11 e 12 marzo, dopo un transito in un ex centro ricreativo in Ziralda e prefabbricati in Tamarassette, i detenuti sono trasportati sotto pressione in autobus, scortati dalla polizia e con il supporto di elementi della mezzaluna rossa algeriana, poi abbandonati nel deserto nel confine di nel sud dal paese. in altre parole, non vengono deportati, ma rimandati al confine. Il che significa nel grande sud dell'Algeria, esposti a vari pericoli, in più delle volte devono attraversare il confine per raggiungere la piccola città di confine di Kalil e poi dirigersi verso Gao. Benissimo, questo è quanto sta accadendo attualmente sulla frontiera tra le Mali e l'Algeria, frontiera particolarmente difficoltosa visto la conformazione del territorio. Si tratta di deserto e quindi queste persone vengono letteralmente abbandonate a loro stesse, e non proprio loro stesse, perché sappiamo bene che quelle zone sono ben battute dai trafficanti e assolutamente non controllate dagli organismi statali, sia algerini che maliani. E possiamo andare avanti. Proprio su questo abbiamo trovato del 18 marzo 2018 di Contropiano che titola così: migranti doc nel Sahel. Perché venerdì 16 di marzo a Niamey nel Niger si sono incontrati i ministri dell'interno e degli affari esteri di Senegal, Mali, Mauritania, Chad, Burkina Faso, Costa d'Avorio, Guinea, Libia, ma non solo, perché vi erano presenti anche Germania, la Spagna, l'Italia e la Francia, che stanno pensando di creare una forza per attaccare le reti del traffico di persone. Come fanno? È una cosa, diciamo, un po' oscura, perché di fatto non è ben chiaro quali siano queste reti e non è ben chiaro chi comanda queste reti. Comunque, non è neanche ben chiaro i metodi che loro utilizzano per lo spostamento e per il rimpatrio di questi migranti. Di fatto vi è un'organizzazione, che è l'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni, che la OIM, che ha appena presentato il rapporto di libero rientro ai paesi di origine dei migranti del Sahel, quello che diceva appunto poco fa. Loro come fanno? È molto difficile, perché di fatto molte persone che transitano nei territori africani non hanno documenti con sé, quindi loro hanno addirittura ideato un modo per schedarli attraverso dei veri e propri codici a barre. Comunque, dall'inizio dell'anno circa 7.000 arrivati dall'Algeria, ritorni volontari per circa 1.300 migranti che sono stati rispediti nei paesi di nascita, questo con la complicità delle ambasciate del Mali, del Senegal e della Guinea. Questo per dire che per sottolineare la criminalizzazione della migrazione non solo nei territori europei, bensì questo sta iniziando ad avvenire addirittura nei territori africani. Territori africani che, se da una parte vanno in questa direzione nei confronti dei migranti, da un'altra parte invece cercano di abbattere le frontiere, perché c'è stato un incontro a Kigali, in Ruanda, dove sono state gettate le basi serie per un accordo per creare una zona di libero scambio continentale. Ebbene sì, l'Unione Africana si sta impegnando per far sì che vi possa essere una libera circolazione sia delle merci che delle persone all'interno del continente africano. Non è una proposta che ha ricevuto la piena approvazione da parte di tutti, perché dei 55 stati stati dell'Unione Africana l'hanno, è stata insomma ad approvarla, sono stati attualmente esclusivamente in 44, nonostante siano 2 anni che se ne parli. Fra le nazioni che non hanno, che non accettano questo accordo, vi è proprio la Nigeria, che è una delle economie più importanti del continente africano, che si rifiuta di firmare questi accordi, soprattutto in seguito alle proteste da parte del sindacato. Trovate queste notizie su un articolo con un'intervista pubblicata da Radio Onda d'Urto. Però sempre per rimanere in tema africano, io vi portiamo all'attenzione di alcuni articoli pubblicati in primis da Africa Express, esattamente da Sandro Pintos, che il 21 marzo 2018 scrive un articolo riguardo al processo che è iniziato in data 15 marzo, processo che vede imputate le due multinazionali del petrolifere, l'italiana Eni e invece l'anglo-olandese Shell, accusate di inquinamento ambientale, in particolare nei pressi del delta del Niger, e di corruzione internazionale. Vi è uno studio portato avanti da Amnesty International, che attraverso moltissimi scienziati e studiosi ha analizzato quasi 3.000 documenti e fotografie che riguardano la fuoriuscita di greggio nel periodo che va dal 2011 al 2017, e appunto secondo il quale i due giganti dell'industria petrolifera sono manchevoli nella tutela dell'ambiente. Naturalmente i due giganti dell'industria petrolifera non ci stanno, rimandano indietro le accuse dicendo che la maggior parte delle perdite delle pipeline sono causate dai furti della popolazione. Questo li discolpa e vi fa sì che possano evitare eventuali sanzioni e il pagamento di ingenti risarcimenti. Ma non è solo questo, perché vi sono sì perdite dalle pipeline, ma vi è anche un grosso ritardo nell'intervento da parte delle due aziende. Perché? Perché vi sono delle norme ben precise che stabiliscono che devono intervenire entro le 24 ore dalla segnalazione, mentre questo non succede. Eni è un pochino più brava, perché diciamo che ha rispettato questo termine nel 76% dei casi, mentre la Shell lo ha fatto, pensate un po', nel 26% dei casi. Quindi addirittura portano al dettaglio alcuni ritardi. Leni in un caso ha siglato il record per la reazione più lenta, addirittura di 430 giorni. Questi ritardi fanno sì che aumenti il rischio di inquinamento delle fonti alimentari e idriche. Di fatto, se andate su Google e digitate Delta del Niger, vi vengono fuori delle foto realmente, realmente agghiaccianti. Ma non ci fermiamo qua, perché l'accusa non è solamente di inquinamento ambientale, ma addirittura ben più grave, di corruzione internazionale. Stiamo parlando naturalmente dell'impianto OPL 245, che è stato acquistato nel 2011 dalle Oil Major Eni e Shell, e di fatto rappresentano un Eldorado di oro nero. Questo giacimento è stato assegnato nel 1988 per 20 milioni di dollari, che è una frazione, veramente una frazione minima del suo valore attuale, alla Malabu Oil and Gas, una società segretamente di proprietà dell'allora ministro del petrolio Dan Etete, e nel 2011 il blocco è stato poi ceduto alla Shell e Eni in cambio di un pagamento di 1,1 miliardi di dollari, di fatto, che non sono stati, che sono stati trasferiti alla Malabu anziché allo Stato nigeriano. Questo lo scrive Recommon. Negli ultimi giorni del 2017, Eni, Shell e 13 tra manager politici e intermediari sono stati rinviati a giudizio con l'accusa di corruzione internazionale per l'acquisizione del blocco petrolifero offshore. Dicevo appunto, Recommon ha portato avanti delle inchieste molto interessanti, trovate tutto sul suo sito. Quindi questo per quanto riguarda gli articoli selezionati da noi su, che riguardano prettamente il territorio africano. Per poi adesso passiamo invece a questioni che si avvicinano un pochino all'Europa e in particolare alle frontiere europee. Sul fronte meridionale abbiamo visto che da quest'estate i flussi migratori sono cambiati notevolmente grazie all'accordo unilaterale fra l'Italia e la Libia per contrastare le partenze dei migranti dalla costa libica verso la costa italiana. E in data 15 marzo vi è stato un fatto che ha portato a delle conseguenze piuttosto gravi, soprattutto per una nave di un'ONG spagnola, la Proactiva Open Arms, che è stata sequestrata poi dal GIP di Catania, in quanto si è rifiutata di consegnare 218 migranti alla Guardia Costiera Libica, che addirittura li ha inseguiti e li ha minacciati più volte di uccidere tutti i migranti e loro se non li avessero consegnati. Loro si sono rifiutati e appena approdati a Pozzallo, in Sicilia, sono stati fermati, è stata sequestrata la nave. Loro sono stati accusati di accuse gravissime, favoreggiamento all'associazione a delinquere e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Poi vedremo come è andata a finire, anzi ancora non è andata a finire, comunque questo è il fatto. Molto dibattuta la presenza e l'arroganza della Guardia Costiera Libica nei confronti dei salvataggi. Il GIP di Catania, Nunzio San Pietro, però ha poi escluso l'accusa di associazione a delinquere, perché ha dichiarato non validi gli interrogatori fatti ai due indagati, Mark Reig, che era il capitano della Open Arms, e Anna Isabel Montes Miller, che era la coordinatrice della missione, perché sono stati svolti nell'hotspot di Pozzallo il 16 marzo, ma non erano presenti né gli avvocati né gli interpreti ufficiali, e quindi questi interrogatori sono stati annullati. Comunque il sequestro della nave è stato confermato, ma il fascicolo delle indagini ha visto cadere appunto l'accusa di associazione a delinquere, tutto passato infine alla procura di Ragusa. Il fatto appunto era avvenuto a largo della Libia in data 15 marzo e c'è molta discussione riguardo a questo, perché di fatto è stato, diciamo, il capitano della nave, Mark Reig, dichiara che loro sono stati raggiunti dalla Guardia Costiera Libica in acque internazionali, quindi non vi era la priorità per la Guardia Costiera Libica, e inoltre loro sostengono che la SAR, cioè la Search and Rescue Area, che è quell'area istituita dai trattati unilaterali tra la Libia e lo Stato italiano, che prevedeva appunto l'allargamento della zona delle acque di pertinenza, diciamo, della Guardia Costiera Libica, veniva estesa verso le acque internazionali. Loro sostengono che sì, questo accordo è stato ratificato dal governo italiano e dal governo libico, anche se sappiamo bene che in Libia la situazione è un po' caotica, ma tutto questo però non è stato confermato dagli organismi di monitoraggio marittimo, e quindi ancora di fatto non è una cosa molto chiara non si sa bene di chi è la pertinenza, diciamo, nel soccorrere le persone in quell'area. Di fatto quindi abbiamo visto che la nave è stata sequestrata, si sta attendendo, ci saranno i vari svolgimenti. Bisogna considerare che naturalmente la marina libica agisce, è noto, abbiamo già visto altri casi dove viene utilizzata la violenza per estrarre, diciamo, le persone dal mare, e quindi diciamo si trattano di palesi violazioni dei diritti umani. Fra l'altro, un articolo di Internazionale porta all'attenzione il fatto che la Guardia Costiera Libica molto probabilmente è controllata e diretta dallo Stato italiano. Ebbene sì, perché pare che il coordinamento della Guardia Costiera Libica di fatto al quel giorno era allestito all'interno della nave militare italiana Capri, che è ormeggiata nel porto di Tripoli in Libia. Questo mette la Marina Militare Italiana in una posizione piuttosto scomoda, perché di fatto sarebbe responsabile dei respingimenti collettivi in violazione dell'articolo 4 del quarto protocollo della Convenzione Europea per i diritti dell'uomo. Questo fatto non è nuovo, in quanto l'Italia è già stata condannata nel 2011 dalla Corte Europea per i diritti umani per un respingimento collettivo avvenuto nel 2009, quindi diciamo che siamo già abituati a questo genere di cose, ma comunque noi ci scandalizziamo sempre e comunque. Andando ad altri tipi di frontiere, si parla della frontiera tra Italia e Francia a nord, quella alpina, dove i problemi non sono così diversi da quelli invece nella frontiera meridionale, perché di fatto i migranti si trovano ad attraversare i valichi alpini, soprattutto in inverno, e si sono molto pericolosi. Le persone che tentano di attraversarle non sono equipaggiate, non sono preparate per affrontare la neve, il freddo che soprattutto nei mesi invernali presente in queste zone. Ci sono stati diversi casi di persone che sono state inseguite, ci sono veramente quasi si può dire dei rastrellamenti, ci sono persone che vengono acchiappate e rigettate in territorio italiano. La gendarmeria francese è sicuramente molto dura nel respingere le persone, addirittura violando anche qui i trattati internazionali, perché vengono respinti sia persone sia migranti, anche minorenni, dove invece vi sarebbe l'obbligo di accoglienza, minorenni e persone anche molto in difficoltà. È stato noto alla cronaca proprio pochi giorni fa del respingimento di una persona, di una donna incinta, che poi ha avuto grossi problemi di salute proprio a causa del grosso ritardo nei soccorsi, proprio perché erano fermi ad un posto di blocco e non gli è stato permesso di raggiungere l'ospedale più vicino con celerità. I problemi si focalizzano principalmente nell'Alta Val di Susa, adesso che la frontiera di Ventimiglia è strettamente controllata, in particolare nei pressi di Bardonecchia e di Clavier, che sono diciamo le cittadine, i paesi più raggiungibili con i treni, per poi affrontare a piedi il valico. Questo, in tutto questo vi è anche una grossa solidarietà sia sul fronte italiano, dove è attiva una rete che si chiama Briselle Frontiere, appunto sbricioliamo le frontiere, che si occupa di fornire sia materiali idonei alla sopravvivenza in queste condizioni, sia anche informazioni sulla sicurezza e sull'incolumità, per far sì che insomma le persone riescano a passare incolumi questo tratto così impervio. Sulla parte francese anche lì la solidarietà non manca, grazie a diverse organizzazioni. In generale si può, diciamo, in particolare avremo poi un contributo che ascolteremo successivamente proprio di un attivista di Briselle Frontiere, però si può fare un ragionamento sia guardando i problemi che avvengono al nord sia al sud dell'Italia, e sono soprattutto ragionamenti che ci portano a pensare che realmente c'è una criminalizzazione delle persone che per vari motivi si trovano a dover affrontare un viaggio così pericoloso. Di fatto sono trattati come criminali anche chi offre solidarietà. No, sono noti diversi casi di accuse a cittadini italiani, ma anche francesi, per l'aver aiutato, per aver dato supporto a migranti in estrema difficoltà, ribadiamolo, in difficoltà, cioè più che difficoltà, il rischio veramente di vita. Andando avanti, sempre sul tema delle frontiere, ci spostiamo un pochino ad oriente, perché sappiamo bene dei trattati che l'Unione Europea ha siglato con la Turchia oramai 2 anni fa. Il compleanno di questi trattati è stato il 18 di marzo. Questi trattati che prevedono lo stanziamento di ingenti somme da parte dell'Unione Europea a favore della Turchia, che ha invece il compito di trattenere il più possibile, poi sappiamo bene i turchi quanto siano efficienti in queste cose, di trattenere i migranti che arrivano dalla Siria, territorio in guerra ormai da ben 7 anni, e che ha visto un esodo della sua popolazione, che però quando arriva alla frontiera turca si trova di fronte a un muro di ferro e cemento alto 3 metri, lungo più di 800 chilometri, che è pattugliato notte e giorno da mezzi militari pagati anche e soprattutto con fondi di Bruxelles. Pare che l'Unione abbia fornito circa oltre 80 milioni di euro ad Ankara per l'acquisto di mezzi militari blindati, apparecchi per la sorveglianza, navi per il pattugliamento delle frontiere. E appunto, la somma fra il 2016 e il 2017 ammonta addirittura a 3 miliardi di euro. Allora, naturalmente sappiamo come la Turchia che situazione sta affrontando e che tipo di governo sta portando avanti le questioni turche. Infatti addirittura si vantano di questa cosa, perché proprio il console turco a Chicago dice: mentre l'America ancora dibatte sulla costruzione del muro, la Turchia ha già costruito il suo. Quindi addirittura loro ritengono un vanto quella di costruire un muro che impedisce alle persone di passare, e le mette fortemente a rischio, perché naturalmente il fatto che le persone si avvicinino troppo al muro comporta l'immediato attacco da parte delle sofisticate mezzi di difesa turchi. In tutto questo vi è una grande responsabilità della Unione Europea, che attraverso queste azioni non fa altro che esternalizzare la frontiera e le politiche di asilo, semplicemente cerca di allontanarle dai territori, dall'Europa e quindi anche dall'attenzione mediatica. Cosa consiste questo sbarramento? Appunto, prevede appunto una sorveglianza, un monitoraggio con i droni, con sistemi armati e controllo remoto e posti di guardia. Una parte di tutto questo massiccio controllo militare è stato pagato attraverso fondi comunitari. Nel novembre del 2015 Otokar, che è un'azienda privata di difesa turca, ha vinto un contratto europeo da 47,5 milioni di euro per la fornitura di 66 veicoli blindati equipaggiati per la sorveglianza dei radar e telecamere ottiche, oltre che di elicotteri Cobra. E la Turchia possiede attualmente circa 700 Cobra. Quindi, in altre parole, l'attrezzatura finanziata dall'Europa serve a scoprire già a distanza quei potenziali richiedenti asilo che ora rischiano la vita ad avvicinarsi. Non ci fermiamo qua, perché sappiamo bene che la Turchia non utilizza questi mezzi esclusivamente per il blocco dei migranti, ma li utilizza anche per azioni ben più intrusive. Basta vedere l'occupazione del suolo siriano che sta portando avanti da questo gennaio con l'operazione Romescello d'Ulivo, che vede appunto l'occupazione del cantone di Afrin, cantone siriano occupato precedentemente fino a poco fa dai curdi, che stanno tentando di instaurare il confederalismo democratico, anzi vi erano riusciti, poi sgomberati dall'ingresso turco. In definitiva, in conclusione, possiamo certo dire che l'accordo sui rifugiati siriani non è altro che un ricatto attraverso il quale Erdogan può permettersi di fare e ottenere qualsiasi cosa voglia, inclusa questa tremenda operazione in Siria. Questo lo scrive l'Espresso, il settimanale. Bene, per quanto riguarda le questioni della frontiera, abbiamo tendenzialmente finito. Vedremo appunto l'approfondimento di Brisele Frontier in fondo, in seguito, ma andiamo adesso invece sul suolo nazionale a analizzare altre situazioni sul suolo italiano proprio. Ecco a voi, Med. Eccoci qua, ciao a tutti, continuiamo ancora appunto con il tema dell'emigrazione, ci spostiamo però appunto verso un territorio diciamo più vicino a noi, il territorio italiano, e andiamo quindi a parlare di situazioni di completa emarginazione sociale che si creano appunto all'interno del territorio italiano. Non stiamo parlando soltanto del tema della migrazione, intesa diciamo come un transito che poi appunto attraversa anche l'Italia, perché molte delle persone appunto delle quali andremo a parlare non hanno l'intenzione di rimanere all'interno dell'Italia, ma vorrebbero spostarsi in altri paesi europei, ma andiamo anche a parlare della ricerca diciamo di una stabilità che molte persone purtroppo non riescono a trovare a causa di una serie appunto di complicazioni molto spesso burocratiche. Prendendo appunto notizie da quello che è il rapporto fuori campo pubblicato da Medici Senza Frontiere l'8 febbraio, scusate, abbiamo un problema, eccoci qua. Come dicevo appunto, prendendo spunto dal rapporto fuori campo pubblicato da Medici Senza Frontiere l'8 febbraio, andiamo a parlare di diciamo la situazione di marginalità nella quale si trovano appunto migliaia di persone all'interno dell'Italia, appunto del suolo italiano, e della creazione di una serie di insediamenti informali che si vanno a creare appunto in tutte le nostre regioni. Le persone, appunto queste persone che sono principalmente migranti, richiedenti di asilo, spesso appunto in attesa di ricevere un posto in un centro di accoglienza a cui appunto l'accoglienza è stata negata, vivono, diciamo, si ritrovano appunto a vivere in insediamenti spontanei, edifici appunto occupati, edifici abbandonati e molto spesso anche baraccopoli, sia nelle zone diciamo cittadine sia in campagna, che si ritrovano appunto a vivere in condizioni di vita assurde, completamente appunto inaccettabili, senza avere appunto l'accesso a quelli che sono i beni primari necessari per vivere. Moltissime di queste persone appunto sono persone che diciamo vengono lasciate fuori dalle commissioni di asilo e che rimangono incastrate appunto in un'agonia di ricorsi, e che appunto si ritrovano in queste condizioni di vita di degrado completo, assurdo. Spesso appunto vengono esclusi dall'accoglienza a causa di leggi comunitarie, e questi centri appunto, questi insediamenti informali che si vanno a creare sparsi appunto in un reticolo per tutta Italia, vedono anche modificare diciamo i numeri al loro interno delle persone in seguito molto spesso a sgomberi di altri centri che vengono fatti appunto dalle forze dell'ordine. Di fatto questo sembra appunto sia l'unico modo per affrontare il problema della formazione appunto di questi insediamenti nei quali le persone vivono appunto in condizioni di vita inaccettabili. Il rapporto appunto fuori campo Denuncia la presenza di più di 10.000 persone in Italia, distribuite in circa 47 insediamenti, appunto, insediamenti informali, principalmente edifici abbandonati, appunto, e successivamente occupati o baraccofoli. Per riferirci appunto a zone più vicine, denuncia appunto il rapporto di fuori campo, denuncia molte situazioni nel Lazio, uno nei pressi di Firenze, in via Baracca, questo denuncia il rapporto fuori campo, nel quale vivono di persone provenienti dalla Somalia. Sì. Se Briccobaldo vuole dire qualcosa appunto a proposito di questo. Sì, dunque in via Baracca vi sono insediati qualche problema tecnico. Sì. In via Baracca vi si sono insediate le persone che sono state sgomberate, se non mi sbaglio, l'estate scorsa dall'occupazione di via Luca Giordano. Era una comunità di somali che si trovava lì da diversi anni, che ha affrontato nella permanenza in via Luca Giordano molti molti problemi, in parte dovuti alla complessità della struttura. Era veramente fatiscente, popolata da numerosi esemplari di animali che non si confanno proprio perfettamente a una vita salubre. Era anche un punto dove vi era un grande transito di persone che si fermavano anche per pochi giorni per poi proseguire verso il nord Italia, il nord Europa. Ecco, loro sì, sono stati sgomberati da... Qualche precisazione, sono stati sgomberati da un posto che di fatto erano due grandi stanze sotto il cavalcavia delle Cure ed esattamente adiacenti alla ferrovia, nei pressi della stazione di Campo di Marte, quindi in un luogo assolutamente non idoneo all'abitazione, però di fatto era l'unico posto dove loro potevano stare. Anche da qui l'amministrazione fiorentina li ha sgomberati e ha deciso che non vi potevano più stare, e giustamente, essendo persone che da più di 10 anni attendono una soluzione abitativa concreta e stabile, si sono trovati nella necessità di andare a occupare un nuovo stabile, e per la precisione appunto in via Baracca, dove vi è anche il centro IAM. Sì. Bene. Dopodiché appunto abbiamo preso spunto da un articolo pubblicato dall'Internazionale, sempre l'8 febbraio appunto, scritto da Annalisa Camilli, intitolato Fuori campo, perché i migranti finiscono dei ghetti. Si tratta di un articolo che ricostruisce la storia appunto di un ragazzo proveniente dalla Nigeria, arrivato in Italia appunto e ritrovatosi in una situazione analoga, in un insediamento appunto informale, in preda appunto a una situazione, condizioni di vita completamente appunto completamente assurde, inaccettabili. Per poi appunto andare a, sempre facendo riferimento al rapporto fuori campo di Medici Senza Frontiere, a una serie di denunce che quest'ultimo fa. L'articolo appunto racconta di questo ragazzo che assegnato inizialmente ad un centro di accoglienza della Sardegna, si è fuggito da questo centro per raggiungere dei conoscenti che si trovavano a Roma, per cercare un lavoro, cercare di lavorare, e a seguito appunto di questa fuga ha perso il diritto di accoglienza, che appunto si era allontanato dal centro per più di 3 giorni, questo scrive l'Internazionale. Si è ritrovato appunto a non sapere dove andare a dormire, a non sapere dove andare ad abitare, e appunto grazie a un giro di voci è arrivato in questa fabbrica abbandonata nella zona di Roma, nella periferia di Roma, di fronte alla quale appunto è rimasto ovviamente allibito da una situazione, delle condizioni di vita tremende. Si tratta di un centro che accoglie appunto, un centro ovviamente informale, che accoglie circa 150 persone e che diciamo ha visto nel passato, non così lontano, un'affluenza di molte persone provenienti da altri sgomberi avvenuti nella zona. Questo centro, comunque molto diciamo isolato, non ha vicino appunto nessun tipo di servizio. Si sono arrangiati con uno spaccio di materie prime, quali appunto passato tipo materie prime per un pasto, per cui non hanno luce, non hanno gas, l'unico gas che hanno sono delle bombe appunto che sono state portate. E ovviamente i problemi più importanti sono problemi, vabbè, ovviamente riguardo alla sanità. Per questo Medici Senza Frontiere ha organizzato un presidio, organizzato e continua a organizzare ogni 15 giorni un presidio medico per cercare di far fronte a quelli appunto che sono i problemi che si trovano all'interno del centro. Con il rapporto appunto fuori campo, Medici Senza Frontiere vuole denunciare appunto quelle che sono secondo loro le conseguenze di una cattiva accoglienza da parte dell'Italia, denuncia inoltre la tendenza appunto che si ha nel rendere l'accoglienza sempre più un privilegio più che un diritto. Di fatto appunto denuncia il fatto che siano stati presentati dalla Commissione Europea una serie di proposte che prevedono praticamente una facile, diciamo, il fatto che sia sempre più facile rimanere al di fuori dei centri di accoglienza per magari mancanza di rispetto delle regole, come per esempio era successo appunto al ragazzo del quale parlava l'articolo dell'Internazionale. Si chiude quindi con questo articolo dell'Internazionale. Passiamo adesso ad una vicenda ancora più vicina, diciamo, a noi dal punto di vista territoriale, ma che si spera sia, diciamo, si sia diffusa e sia, diciamo, anche condivisa un po' dappertutto, specialmente perché se ne sente sempre meno parlare. Si tratta della vicenda appunto di DDN, l'uomo proveniente dal Senegal, dal Senegal, di residente a Firenze, ucciso, assassinato il 5 marzo nel centro di Firenze. A seguito appunto delle varie presidie e delle manifestazioni che sono state fatte, se ne sente ormai poco parlare, sempre prendendo spunto da un articolo dell'Internazionale, che appunto ha scritto un paio di articoli negli ultimi 15 giorni, in particolare quello sempre di Annalisa Cammilli, pubblicato il 13 marzo. È stata pubblicata una lettera scritta dalla famiglia Didi, una lettera che va a ringraziare diciamo la partecipazione sia ai presidi, alle manifestazioni che sono state fatte in suo ricordo, sia per ringraziare tutte le persone che hanno sostenuto dal punto di vista appunto economico la raccolta di fondi che è stata organizzata dalla famiglia. Si tratta di una raccolta di fondi destinata a coprire quelle che sono le spese di rimpatrio della salma e più che altro per andare a sostentare chi dipendeva dalla vita e dal lavoro di DN. Al momento sono stati raccolti circa 30.000 euro. che verranno appunto poi ridistribuiti e, tra i vari figli principalmente. Per quanto riguarda, diciamo, notizie dal processo, non si sa ancora, diciamo, niente di certo. Siamo riusciti appunto a capire che si saprà qualcosa tra circa 2 settimane, quando il fratello tornerà dal Senegal, perché sarà indetta una conferenza stampa, giusto? Sì, sì, esattamente. Il fratellino di Dien attualmente è in Senegal. Hanno portato la salma in Senegal. E al suo ritorno, fra circa un paio di settimane, vi sarà una conferenza stampa che illustrerà come intenderanno procedere sulla questione. Questo a detta di un rappresentante della comunità senegalese di Pontedera, luogo dove Idi risiedeva. Quindi per questo di fatto le cronache non ne parlano, non ne hanno più parlato, ma invece noi abbiamo chiamato Pap Demba, che è appunto segretario regionale della Toscana e l'area vasta della comunità senegalese. In tutto questo noi facciamo un piccolo stacchetto prima di proporvi degli approfondimenti. Io, se siete d'accordo, vi manderei una canzone. Non so se siete d'accordo, il mio computer non tanto, mettiamola così. Allora, vedremo. Forse vi mando una canzone. Grandi problemi tecnici nella tana del Wombat. Come sapete, noi siamo, è una tana che è un po' un laboratorio, proprio perché noi stiamo migliorando, stiamo imparando a fare tutto ciò che è necessario fare per una radio che non è sicuramente una cosa molto semplice da gestire, ma forse ci siamo. Vediamo se i potenti mezzi del Wombat ci supportano. Vediamo se trovo anche il buco. E questo è il pezzo che vi proponiamo. Le tracce che secoli e popoli trascorsi hanno lasciato. Nostra fine, gesti e pensieri che detesto e li sto a guardare. L'anima della terra si solleverà, rovesciando dolore e lacrime che non possono cessare. We'll be right back. Avete sentito Ginevra Di Marco con Eclissi, che ci ha introdotto, che ci introduce agli approfondimenti previsti per quest'oggi. Iniziamo ad approfondire la situazione del Mali, in particolare della parte nord del Mali, che è abbastanza problematica, vede situazioni abbastanza difficoltose in generale, ma nello specifico per i migranti. Abbiamo qua Tidjane Thigjan, grande nome per un grande uomo, che proprio per la sua provenienza maliana saprà darci delle informazioni importanti. Ci siamo? Tidjane Thigjan? Ok, ancora non è pronta, ma ci siamo quasi. Il Mali dove è situato? Intanto è situato in Africa, naturalmente, potete immaginarlo. È un territorio molto esteso, non vede affacci sul mare, vede il suo territorio tendenzialmente diviso in due, una parte più meridionale a sud, con più densamente popolata, e una parte al nord che si affaccia sul deserto, che invece è meno popolata ma più problematica, in quanto vi è una presenza, diciamo, di una popolazione, i Tuareg, che hanno imbracciato le armi da ormai tanti anni e che rivendicano, diciamo, la loro terra, che si estende ben oltre i confini del Mali, ma di questo parliamo perché abbiamo un maliano. Tidjane Thigjan, forza, ci siamo? Sì, ci siamo. Bene, allora, abbiamo visto tutte le proteste che stanno andando avanti in Mali, nella capitale Bamako, proteste soprattutto in questi giorni dei migranti che sono stati espulsi dall'Algeria e rigettati nei territori maliani. Dunque, spiegaci un poco com'è la situazione nel nord del Mali. Allora, la situazione al nord del Mali è sempre la stessa, perché c'è sempre la guerra in Mali, che questa guerra anche è più vecchia di tanti dopo 8 anni dall'indipendenza, che è iniziato questa guerra. Indipendenza del Mali che risale al 12 settembre 1960. Beh, quindi insomma si può dire 50 anni che stanno andando avanti questi disordini. Ci sono sempre. E poi in questi giorni c'è su Mali Act, c'è una pubblicazione che hanno detto che la popolazione del nord del paese non ce la fa più. Non solo soffre ogni giorno delle conseguenze della guerra che i terroristi stanno conducendo in Mali, ma ora deve subire la cieca violenza di coloro che pretendono di rilasciarlo nel sangue. I terroristi sono passi. E poi sono passi questi terroristi, ecco, impassiti di sangue maliano. Ecco, quando si parla di terroristi di chi parliamo esattamente? Allora, quando parliamo del terroristi ci sono tante cose dentro, perché ci sono Tuareg, ci sono Pel, ci sono altri ancora che non sono maliani. Cioè, ci sono anche internazionali, diciamo così. Quindi varie etnie presenti sul territorio. Sì, anche c'è un complotto dentro questa cosa. Ecco, quali sono gli interessi in gioco nel nord del Mali? Allora, interessi sono... Allora, in Mali... Allora, fa al nord... Quando dice il Mali, stiamo parlando del nord. Perché al nord fa confino con l'Algeria, e poi questi terroristi fanno tutte le loro cose in Algeria, preparano tutti lì, e poi fanno le cose in Mali, cioè Tuareg, Pelo e tutti, ci sono altre etnie dentro che anche non sono maliani. Allora, che vogliono prendere l'indipendenza, che hanno, che si chiama Azawad, che è movimento liberale del nord di Mali. E poi è questo. Ecco, e ci sono anche, c'è anche la presenza di fatto di eserciti europei, di forze europee, giusto? Sì, sì, c'è. Allora, anche per questo sto dicendo che c'è un complotto, perché guarda, il paese è diviso in due. Allora, c'è, ci sono alcuni posti che i maliani e il governo o i soldati maliani non possono andare, che c'è l'esercito, c'è la Francia, anche in questo momento c'è la Francia, c'è Canada, c'è la Canada, e poi c'è ci sono altri paesi, anche altri paesi, se mi ricordo bene, anche ci sono tedeschi. Ecco, perché che interessi hanno in questo territorio? Perché in questo territorio c'è il petrolio, c'è anche oro. Ecco, quindi attraverso la presenza degli eserciti loro cercano di controllare l'estrazione, sì, di queste risorse. Sì, anche c'è in zona che c'è una zona lì che passa il meridione, la linea meridionale è, come si dice, il meridiano proprio, eccolo, che si passa lì, quando sposta le tue cose tu puoi anche controllare tutto, diciamo così, tutto il mondo. Però anche ci sono questa cosa che da tanti tempo che c'era sempre i francesi che volevano anche controllare questo posto. Ecco, infatti, proprio a proposito dei francesi, io ricordo che circa 3 anni fa vi è stata una missione francese in, sì, Mali, giusto? Certo. Missione francese che loro dicevano di voler contrastare che cosa? Allora, loro dicono che loro volevano seguire combattere contro i terroristi. Ma invece non è solo questo, perché loro stanno lavorando lì e hanno portato le cose che stanno rubando oro, che stanno lavorando solo sull'oro al nord, che portano via tutto questi. Allora, che hanno, per questo che hanno detto che i maliani non possono andare dall'altra parte che fa parte dal Kidale, e poi l'altra parte ci sono i maliani. È questo, è così che hanno diviso il paese in due. Ecco, fra l'altro sui giornali internazionali ho avuto modo di leggere anche molti casi di attacchi da parte dei ribelli ai contingenti maliani, all'esercito maliano, alle fortezze, insomma, ai forti, agli avamposti maliani nel sì, nord del paese. Certo, anche ogni tempo quando i maliani iniziano a combattere contro i terroristi, che ci sono sempre qualcosa su, non sono solo i terroristi che combattono contro i maliani, anche i maliani sanno questo, che ci sono anche i francesi che aiutano i terroristi a combattere i maliani per avere i loro interessi. Ecco, bene, questa è una notizia. Sì. E, dunque, il nord del Mali è anche una zona molto povera, giusto? Di fatto, non da un punto di vista di risorse minerarie, perché abbiamo visto che c'è la presenza del petrolio, ma diciamo le persone, gli abitanti del nord del Mali, oltre a essere in difficoltà per gli attacchi dei guerriglieri, sono anche in difficoltà per la situazione economica. No, io posso dire no, perché la situazione del nord è il nord è basato sul commercio, su, allora portano le cose e fanno sempre il commercio, fanno sempre il commercio, per questo che non sono poveri. Però c'è lì che non si può coltivare, ma vivono con il commercio. Con il commercio, sì. Sì. e poi portano le cose in Algeria, perché Algeria, al nord l'Algeria è più vicino che diciamo che la capitale, che Bamako. E poi non è solo che questo, però cioè, ci sono sempre di va e venire tra tutti le posti, Burkina, Mali, Burkina, la capitale, anche la Mauritania, sono sempre tutti questi avvicino. Bene, ora dunque tu, se mi posso permettere, ti faccio una domanda un po' personale, perché sì, tu sei originario di Bamako e hai attraversato questi territori durante il tuo viaggio, certo, verso l'Europa. Quali sono le difficoltà che hai incontrato? Le difficoltà che ho incontrato posso dire che sono molto, perché la prima cosa è, allora, quando noi siamo arrivato al nord del Mali, e poi abbiamo iniziato a nascondere tutti. Prima hanno messo tutti noi dentro un camione e poi chiudi, e poi siamo entrati nella notte, e poi siamo andati in una casa e che hanno lasciato tutti noi dentro quella casa, e poi chiude a un certo mattina. Poi i ribelli sono venuti dritto, hanno portato tutti noi in una grande casa fuori della città, e poi hanno controllato tutti uno a uno, ti dicono di pagare 2000 francs CFA. E poi se non paghi questo devi mettere i tuoi piedi su il muro, e poi ti picano. Poi è successo anche questa cosa in Mali prima di uscire. Ecco, quindi già questo nel tuo paese. Sì. Bene. E insomma, bene, non bene, no, direi, e poi, di no. Dopo questo ogni 10 chilometri ci sono barraggi, ci sono, sì, come posti, di blocco. Eccolo. Allora, ogni posto di blocco devi pagare 5.000 o di più. Francefa. Sì, Francefa, sempre. Poi quindi abbiamo pagato da quando siamo entrati dal nord e fine a quando che siamo usciti. A volte anche quando ti mettono le mani nel tasca o prende il tuo loseno e controlla tutti i soldi che trovano, ti portano tutto. Hai bisogno sempre di nascondere i soldi, però soprattutto prendono. Ecco, sì, questa purtroppo è una situazione che si ripete anche lungo tutto il tragitto, perché immagino che anche in Algeria la situazione non sia molto diversa. Addirittura in Libia abbiamo visto che non è si tratta della stessa cosa, se non peggio, visto che la Libia di fatto è amministrata da varie fazioni più o meno dubbie, più o meno riconosciute, ma tutte con un molto violente e molto aggressive nei confronti delle persone che vi transitano, in situazione di estrema difficoltà. Addirittura io, parlando con te, ho avuto modo di capire che nonostante si parli ultimamente e solo ultimamente delle gravissime violazioni nei centri di detenzione libici, queste cose sono un po' all'ordine del giorno da oramai molto tempo, molti anni si può dire. Sì. Bene, con questo noi il tempo stringe e abbiamo un ulteriore approfondimento da proporvi. Si tratta di Luca, un attivista di Brise le Frontiere, che è una rete attiva da qualche mese soprattutto nell'Alta Val di Susa e che si occupa di portare un'assistenza, diciamo, se così si può chiamare, alle persone che cercano di attraversare la frontiera nelle grandi difficoltà imposte dal clima rigido e dai percorsi impervi delle Alpi. Sappiamo bene che non è facile. Si tratta comunque di acqua, che si tratti di acqua liquida nel caso del Mediterraneo o di acqua congelata nel caso della neve alpina, però le difficoltà sono sempre tante, il rischio della vita è sempre presente, quindi ve lo proponiamo. L'avete già sentito ai microfoni di Radio Wombat, ma ci sono aggiornamenti dell'ultima ora, si può dire, visto che ci sono stati proprio anche ieri in particolare un evento piuttosto grave che è andato sulle cronache di tutti i giornali, stranamente, perché queste cose solitamente non vanno alla ribalta, ma in questo caso sì, perché la polizia francese, la guardia di frontiera francese, si è introdotta in territorio italiano, addirittura andando in un locale gestito da un ONG a Bardonecchia, con le armi in pugno sono andati a prelevare in modo piuttosto sospetto dei campioni di urina di un migrante che era appena transitato da quel posto e non si sa bene perché comunque lo hanno fatto. Questo ve lo spiegherà meglio Luca, e sempre con i nostri potenti mezzi connetteremo il tutto e vi manderemo questo audio. Eccolo qua. Ai microfoni di Radio Wombat abbiamo Luca, attivista di Brise le Frontiere, che ci aggiorna sui fatti che stanno accadendo sulla frontiera delle Alpi. Sì, ciao a tutti e a tutti, io sono Luca, faccio parte della rete di Brise le Frontiere e racconto un po', diciamo, facciamo una piccola cronistoria di quanto è successo negli scorsi due mesi, diciamo dall'inizio dell'anno, a partire più o meno dalla situazione della marcia che c'era stata, una marcia di protesta, perché insomma sui confini della Valle di Susa con la Francia, in particolar modo Bardonecchia e Ulzio e Claviere Cesana, si stava creando una situazione molto particolare e con dei tratti, diciamo, di emergenza. Di fatto i ragazzi che per tutta l'estate avevano continuato a passare attraverso i valichi alpini cercando di raggiungere la Francia si erano trovati in una situazione un po' più complicata per via della neve, quindi il passaggio diventava più difficoltoso, c'erano rischi di assideramento e anche di morte in alcuni casi proprio per le grosse nevicate, perché insomma per passare i valichi alpini in una stagione estiva, autunnale è relativamente facile, mentre invece d'inverno bisogna avere un equipaggiamento adatto, perché sennò appunto si rischia di farsi molto male. La situazione, quindi, nasce questa rete Brise le Frontiere, che è una rete fatta di attivisti che provengono un po' da tutte le parti, da tutti gli orientamenti politici, diciamo, ma che hanno in comune essenzialmente il fatto di, da una parte, offrire un supporto alle persone che passano, un supporto che poteva essere sia di fornirgli equipaggiamento adatto a fare la traversata e anche informazioni utili per evitare di fare dei valichi troppo pericolosi, come per esempio in questa situazione ancora oggi il Colle della Scala, che sta sopra a Bardonecchia e che si riversa su un piccolo paese che si chiama Nevasce, poi a parecchie ore di marcia raggiunge Briançon. Ecco, questo passo è completamente bloccato perché c'è il rischio di valanghe, quindi è impraticabile anche per le persone più attrezzate, più esperte, mentre invece sicuramente per uno che non sa c'è il rischio di mettersi nei guai. Per cui nell'ultimo mese il passaggio di Bardonecchia è rimasto chiuso, le persone che facevano parte della rete, che si recavano tutte le sere a Bardonecchia per monitorare la situazione. Ricordiamo che nell'area di Bardonecchia era stata aperta una piccola stanzetta che serviva di ricovero, innanzitutto notturno, perché apriva dalle 11 di sera, quando l'ultimo treno per Torino era partito, no? Per raccogliere quelli che rimanevano ancora bloccati a Bardonecchia, e poi in seguito viene aperta per tutta la giornata per dare la possibilità sia ai medici che agli avvocati dell'ASI e dei mediatori culturali di comunicare con le persone di passaggio per dargli informazioni sia per quello che riguardava la traversata, ma anche per quelle che potevano essere delle soluzioni alternative al viaggio. Ecco, Rainbow for Africa e l'ASI e i mediatori culturali non fanno parte della rete di Brisele Frontiere e avevano, diciamo, anche degli obiettivi relativamente differenti, nel senso che nel loro intervento ci stava appunto anche quello di dare delle informazioni adeguate sui diritti come richiedenti asilo sul territorio italiano invece che francese. Questo anche per un grosso problema che c'è per tutti coloro che si recano in Francia: il fatto di essere stati identificati, avere dato le impronte in Italia, significa che difficilmente in Francia possono arrivare, sempre che riescano ad arrivare a fare la domanda, e poi è difficile che possano ottenere un permesso, perché appunto per il regolamento di Dublino il paese che dovrà giudicare la richiesta di asilo politico è il primo in cui si viene identificati, quindi quasi tutti quelli che passano dall'Italia sono stati identificati e quindi al limite potrebbero chiederlo sul territorio italiano, ma difficilmente potrebbero averne accesso su quello francese. In più, attualmente le politiche, diciamo, che riguardano l'erogazione dei permessi di soggiorno sembra che siano relativamente più permissive in Italia rispetto a quello che sono in Francia, ma questa è la situazione, diciamo, di un gruppo che si occupa della frontiera, giusto per dare un quadro più o meno comprensivo di quelle che sono le politiche di intervento che si agiscono su Bardonecchia, su Ulzio e su Claviere. Quindi la situazione poi appunto nell'ultimo mese, con il blocco del Colle della Scala, si è sviluppata notevolmente su quella che era l'area di Claviere. Claviere è un piccolo paesino a distanza di 4-5 km da Monginevro, che è invece il primo paese su territorio francese. Sono entrambi stazioni sciistiche molto rinomate e diciamo che il passaggio nell'ultimo mese è stato dapprima molto discreto, nel senso che c'erano gruppi piccoli di 4-5 persone e poi piano mano a mano che si spargeva la voce, il tam-tam, le persone che si riversavano su Claviere sono state sempre di più. Fino a circa 3 settimane fa di fatto c'era una sorta di possibilità, diciamo, dalla parte italiana c'era comunque l'intervento di Brisele Frontiere, nel senso di fornire equipaggiamento, aiuto, cibo e informazioni utili. Dalla parte francese si era sviluppato un grosso movimento di solidarietà che si facevano chiamare Maraud, che praticamente consisteva nel pattugliamento costante di tutte le strade che dall'Italia scendono verso la Francia, in particolare la strada che dal Monginevro si conduce a Briançon, quella che dal Nevache porta sempre a Briançon, insomma una sorta di pattugliamento, perché era molto facile incontrare, soprattutto nelle ore serali ma anche nel corso della giornata, persone che erano a piedi e avevano passato il confine. Passavano il confine in diversi modi, nel senso che ci sono diversi sentieri, strade, alcuni battuti dalle forze dell'ordine francesi, altri meno. Comunque di fatto le persone che riuscivano a non finire nella rete dei gendarmi della PAF, come si chiama la polizia di frontiera francese, venivano poi accolti in questi centri di Briançon aperti apposta per dare accoglienza ai migranti. In particolare adesso siamo a 3, due concessi dal comune di Briançon a delle associazioni ONG e uno occupato da dei militanti francesi, si chiama Chez Marcel. Ecco, quindi la situazione fino a 2 settimane fa era questa, c'era abbastanza un passaggio fluido di persone e tutto sommato il meccanismo funzionava bene, era oliato. Però se ci sono stati qualche episodio di baruffa con i gendarmi francesi, soprattutto sulla pista di fondo che lega Claviera a Monginevro, perché chi si avventurava lungo questa pista poteva essere come dire, intercettato dalle forze dell'ordine, si sono anche fatti, cioè dai francesi, dai poliziotti francesi, si sono fatti anche regalare una motoslitta proprio per essere più efficaci nel pattugliamento delle piste, no? Ci sono stati anche episodi di inseguimento proprio in sella alla motoslitta dei migranti che cercavano di passare. Comunque, quello che però è capitato è che sull'area di Brianson, anche a causa di un grosso sciopero ferroviario sul territorio francese, diciamo che si è saturata la possibilità dell'accoglienza e quindi anche i Maroda hanno cominciato ad avere dei forti problemi a riuscire, diciamo, a pattugliare tutta l'area e a trovare delle sistemazioni almeno temporanee per le persone che intercettavano lungo la loro strada. Dall'altra parte, appunto, come dicevo prima, il tam tam è stato talmente efficace che sulla piazza centrale di Clavière, quella dove si affaccia la chiesetta del piccolo paesino, si cominciavano a presentare anche 30, 40, anche 50 persone, con delle situazioni difficili, per cui magari un controllo di polizia più feroce, la impossibilità di avere un luogo dove sostare, l'impossibilità in Marodio di far fronte a decine e decine di persone in cammino, fatto sta che si è creata nella notte della scorsa settimana, una di giovedì scorso, non questo, una situazione di emergenza tale che ha fatto sì che le persone che erano presenti, persone di Brisele Frontiere, hanno deciso di aprire temporaneamente in emergenza una saletta che si trova sotto la chiesa di Clavière, una saletta grande, abbastanza da poter ospitare anche una cinquantina di persone, dotata di come dire, di attrezzatura, diciamo come una sorta di foresteria, in grado appunto di dare sia sostegno di carattere pratico, insomma cibo, calore, eccetera eccetera, e sia la possibilità di offrire comunque tutto quello che era il meccanismo di supporto. Quindi anche in questa settimana e mezza di occupazione non c'è comunque stato nessun tipo di calo nel passaggio, nei flussi di persone che cercano di attraversare il confine. Quindi la situazione al momento è più o meno questa. Naturalmente l'apertura della chiesetta di cioè del sottochiesa di Clavière, che è stata battezzata Chez-Jésus, naturalmente ha avuto da parte delle autorità delle reazioni differenti. Da una parte il sindaco che ha subito cercato di metterci una pezza, di correre ai ripari, di dire che era una situazione insostenibile, eccetera eccetera. Il prete che sembra addirittura abbia subito agito a livello di denuncia a livello legale, fermo poi che sono intervenuti degli altri preti della Valle di Susa e il Vescovato di Susa, che hanno tenuto a bada la situazione, hanno scongiurato, diciamo, per adesso il pericolo di sgombero. Quindi l'attuale situazione della sala è che comunque non c'è rischio di un intervento delle forze dell'ordine e quindi può svolgere questo suo ruolo di punto di riferimento. Nel corso di questa settimana e mezza si sono registrati naturalmente un sacco di interventi di solidarietà. I francesi della zona di Brianson vengono su in maniera quotidiana, volontari e appartenenti alla rete di Brisé si fanno vivi su tutta la giornata, insomma una copertura abbastanza intensa, proprio anche perché fisicamente avere un posto dove poter stare, quindi potersi riposare, sedere, chiacchierare, bersi un tè insieme, e naturalmente ha cambiato un po' come dire, il livello di intervento e anche la modalità di questo. Ci sono state parecchie riunioni anche per discutere un po' sul futuro, nel senso che poi di fatto questo luogo tutti hanno ben chiaro che è un luogo che può funzionare fino a quando ci sarà un'emergenza freddo, nel senso che poi probabilmente la dinamica sarà come prima, nel senso che le persone di passaggio non per forza hanno voglia o necessità di fermarsi a Clavière, ma possono tranquillamente tentare di proseguire il loro viaggio, ecco, non c'è più l'incognita climatica. Ecco, e quindi, appunto, come prevedete che evolva, visto che il clima andrà migliorando e le nevi sono in via di scioglimento, come cambieranno i flussi? Ancora nevicato tra ieri e l'altro ieri, dai 1.300 in su, Clavière ricordiamo che è 1.900, quindi probabilmente la situazione ancora per almeno un paio di settimane rimarrà costante in questo senso. Poi inevitabilmente bisognerà anche pensare a che cosa succederà di questo posto. Le ipotesi sono tante, finora non sono state ancora prese in considerazione l'idea di riconsegnarlo. Si sta dibattendo sul, come dire, visto che comunque c'è una tolleranza nei confronti della situazione, di elaborare nel momento in cui il posto c'è il maggior numero possibile di contatti, di idee, di elaborazioni su quanto sta succedendo, anche in funzione di portare una critica a quello che è la dinamica della frontiera, soprattutto il fatto che il comportamento della polizia francese in questi mesi è stato ha reso già la frontiera di per sé è un ostacolo, no? Ma un ostacolo che si può sormontare oppure diventa un ostacolo anche pericoloso a causa proprio del continuo operato delle forze dell'ordine francesi che impedendo di fatto il passaggio creavano una situazione di emergenza con le persone abbandonate al freddo e al gelo. Ecco, l'episodio poi che c'è oggi su tutti i giornali dà l'idea di come proprio le forze dell'ordine francese abbiano deciso di attivarsi in maniera energica, perché c'è stata un'irruzione dentro la saletta gestita dall'ONG Rainbow for Africa, un'irruzione di poliziotti francesi che hanno obbligato a Bardonecchia, questo esatto, nella stanzina hanno obbligato i volontari tutti a stare fermi, loro sono entrati armati perché dovevano fare un controllo delle urine a un viaggiatore naturalmente africano e quindi super sospetto, no? E una procedura che insomma viene criticata oggi sulle prime pagine dei giornali, ci sono tutti i tromboni che urlano all'invadenza delle forze dell'ordine francese. Ricordiamo che non è la prima volta, perché poi noi ci ricordiamo benissimo che per tutto questo inverno le forze dell'ordine hanno fatto irruzione alla stazione di Bardonecchia fermando le persone, chiedendo i documenti e non solo, perché facevano lo stesso tipo di controllo molto, molto feroce anche sui treni. Cosa succederà tra due settimane dunque, ritornando alla tua domanda, non si sa ancora, ecco, sono tante le ipotesi. Sicuramente appunto quello che ci si aspetta più facilmente è che le persone in viaggio non abbiano più bisogno di un posto sosta e che quindi cederà insomma la sua funzione più di supporto logistico e pratico, ecco. Bene, bene. Allora noi ci teniamo aggiornati, ricordiamo ancora, abbiamo avuto il telefono Luca, attivista di Brise le Frontiere, una rete di solidarietà e aiuto ai migranti che tentano di attraversare la frontiera tra l'Italia e la Francia. Va bene. Ancora un ringraziamento. Un saluto a tutti e a tutti. Ciao, buon lavoro. Presto, ciao, buon lavoro a voi. Ciao. Eccoci tornati, avete sentito il nostro contributo, grazie ancora a Luca, sempre di nuovo presente ai microfoni di Radio Wombat. Purtroppo dobbiamo dirvi che la rassegna stampa di questa settimana è terminata. Un grande saluto anche dai nuovi speaker. Ciao Wombat. Ciao a tutti. Bene, vi ricordiamo ancora qualche contatto. Se ci volete ascoltare, potete ascoltarci sulle frequenze 1359 con qualche distorsione, con qualche problemino che sarà risolto in futuro. Abbiamo un sito wombat.noblogs.org. Potete ascoltarci attraverso un'app per Android che potete facilmente scaricare dal sito. In tutto questo noi vi auguriamo buon ascolto e viva il Wombat, tutti i Wombat, ciao. Con cara, a dire le cose scombo.